Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas, capitolo 10, parte prima. È bella, vero, l'agonia di un uomo? La banda Bonneau era stata decimata. Tre dei suoi più temibili componenti erano appena morti nel chiasso e nel furore. Una storia di idioti che non significava poi molto. Gli altri attendevano il giudizio in prigione. Rirette, a Saint-Lazare, imparava il latino con il cappellano, non ne capiva molto, ma conserverà un eccellente ricordo delle suore. Furono 12 mesi di bontà, passavo le ore a riempire di note un quaderno di scuola. Aveva d'altra parte buone notizie dalle figlie. Un solo particolare la rattristava: gli amici anarchici, incaricati di occuparsi dei suoi mobili, li avevano venduti, insieme ai libri e alla biancheria. Kilbacicche utilizzò i primi mesi di prigione a coltivarsi e soprattutto a riflettere sul passato. Raymond, con gran meraviglia di Émile Michon, criminologo celebre e membro della Società Generale delle Prigioni, che affascinato da questi strani assassini veniva sovente a far loro visita, dagli incontri doveva venir fuori un libro intitolato «Un po' dell'anima dei banditi», non sognava che di volare in aeroplano, di esplorare il fondo dei vulcani, di visitare gli abissi sottomarini, grandiose utopie scientifiche che non avrebbe mai visto diventare realtà. Era prevedibile che con una simile mentalità quest'uomo sarebbe finito in qualche folle avventura, ne concluse l'eccellente signor Michon. Mounier si dava alla cultura fisica, Soudy sogghignava un po' e tossiva molto. Caroui non sopportava di star rinchiuso. Dieudonné pensava a suo figlio Jeannot e a sua madre, malata di vecchiaia e di dolore. Inviava regolarmente a Michon lunghe dissertazioni sul tema dell'amore materno. «Io amo mia madre», diceva, «come si deve amare colei che vi ha dato la luce, che vi ha allevato a prezzo di mille sacrifici e ha percorso il rude calvario di ogni madre, rimanendo vedova in giovane età con tre figli piccoli. Io l'amo anche perché essa soffre per me e io soffro per lei. In una parola, io l'amo piamente come un bimbo ama sua madre. E quando nelle mie notti d'insonnia io racconto le mie pene all'asse del mio duro giaciglio, mi sorprendo a volte a tender le braccia verso di lei, come quando ero piccolo, mormorandole tra i singhiozzi tutto il mio dolore e mormorando la parola mamma. Malgrado la lettera di Garnier a Xavier Guichard, pubblicata poco prima dal Matin, malgrado il testamento di Bonneau, si continuava, sulla base di improbabili indizi, a perseguitare Eugene, che gemeva per la rabbia e la disperazione, soffocando d'impotenza davanti alla malafede degli uomini. Due settimane dopo la strage di Nogent, una notizia gli diede il colpo di grazia. Il buon Renner, umile, umilissimo discepolo di Tolstoi, che non aveva mai nascosto nulla, né il suo nome, né i titoli rubati, né armi, era stato appena denunciato da un vicino, chiamato Blanchet, e gettato in prigione con la moglie, per averlo ospitato per due giorni, il Natale scorso, in occasione dell'affare di Rouet-Ordener. Egli lasciava tre figli, di cui Madeleine, la fidanzata di Charles Bill, guida intellettuale di Dieudonné a Nancy, come si ricorderà. Alcuni giorni dopo questo avvenimento, una ombra di sorriso illuminò finalmente il suo viso. Charles l'aveva vendicato, aveva vendicato i Rainer. Per mezzo della signorina Bellot, una ragazza compiacente che gli faceva ogni tanto compagnia la sera, rallegrando a volte anche quelle di Rainer. Era venuto a sapere il nome del delatore, altro cliente della Bellot. Aveva scritto immediatamente una lettera alla fidanzata: stai tranquilla, tuo padre sarà vendicato, e da me. Ho saputo chi è il vigliacco che l'ha denunciato. Sempre bello sacrificarsi per la propria causa. D'altra parte ho il presentimento che prima o poi sarò arrestato anch'io. Dunque devo agire in fretta e bene, e poi preferisco la morte alla galera. Marlene, sii coraggiosa, dimenticami, non preoccuparti di me. Io non sono che un giustiziere che si immola volontariamente. Lo stesso giorno egli attese Blanchet sulla strada che da Nancy porta a Pont-Saint-Vincent, con la sua Browning in mano. La spia, vedendolo armato, si mise a correre. Bill si lanciò al suo inseguimento. Passava un tramvai. Blanchet rivolse al manovratore un segno di implorazione perché fermasse. Ma non c'era fermata e il tranviere, osservatore scrupoloso del regolamento, rifiutò di farlo. Bill raggiunse il delatore e gli scaricò la pistola nel ventre, sotto gli occhi sbigottiti di un testimone, tale Humblot, altro falegname che Dieu non ne conosceva. Hai cominciato, René, ecco la tua paga, gridò Bill. Poi fuggì a gambe levate, non fu mai ritrovato. E forse è ancora vivo in qualche posto dell'America del Sud, dell'Africa o dell'Australia. L'11 settembre 1912 il giudice istruttore Gilbert aveva chiuso l'istruttoria. I giorni passavano regolari, insipidi, interrotti talvolta da visite nel corso delle quali, con gran sbalordimento di Michonne, i banditi si presentavano in parlatorio con la camicia sbottonata e il petto scoperto, malgrado il freddo gelido. Nella loro cella, osserva questo bravo entomologo dei costumi criminali, giorno e notte lo sportello era aperto. Erano sempre di una pulizia esemplare, le mani lavate di fresco e le unghie curate. Essi si distinguevano in questo modo dagli altri prigionieri, trascurati nel contegno, freddolosi, piagnucolosi. Le regole di un'igiene assai rigorosa rappresentavano tutto il segreto della loro salute. Vegetariani e bevitori d'acqua si dedicavano regolarmente alla pratica della ginnastica svedese. L'8 gennaio 1913 i giornali riferirono di un tentativo di evasione spettacolare, ma fallito. Ekerlen, condannato come criminale comune per aver fatto parte un tempo della banda, si trovava al primo piano della Santé, nella cella 23, contigua alla camera del secondino, Le Bras. Tra le due stanze, una finestrina praticata nel muro permetteva al guardiano di sorvegliare il prigioniero. Una sera, rientrando dal permesso verso le 9, Le Bras trovò la porta della sua camera aperta e le sue cose sottosopra. L'uniforme e la pistola erano scomparse. Pensò subito a uno scherzo dei compagni, ma la porticina in legno dello spioncino era sfondata, il telaio era stato divelto, la cella era vuota. Dette l'allarme. Maillard, il capoguardia, accorse a quel suono e incrociò nei corridoi un secondino la cui andatura gli sembrò strana. Gli chiese l'identità. Era Ekerlen, che subito tirò fuori la pistola. Maillard non si lasciò impressionare. Approfittando della penombra, impugnò la chiave come fosse un'arma. Ekerlen ebbe un istante di esitazione. Esso gli fu fatale. Un secondino, arrivando a passi felpati alle sue spalle, lo crivellò di coltellate. Su un biglietto ben piegato in una tasca del suo camiciotto vennero trovati i numeri delle celle che avrebbe dovuto aprire: quella di Raymond, di Caruy, di Soudy, di Monnier, di Deboe. La società l'aveva scampata bella. Il processo si aprì meno di un mese dopo, il 3 febbraio 1913. Giorno di carnevale, sotto la presidenza del signor Quinault. Il banco era troppo piccolo per contenere i 22 accusati, era stato necessario ingrandirlo. Erano state prese straordinarie precauzioni di polizia, si temeva ancora qualche colpo di scena, macchinato da quei banditi diabolici o da complici in libertà. Il pubblico si riduceva a una cinquantina di agenti in borghese, assiepati nel ristretto spazio rimasto disponibile. Come dire che non era favorevole agli accusati. Del resto, eccetto per Kilbacique, la cui chiarezza di pensiero e facilità d'eloquio sembrarono subito al presidente così temibili che non lo lasciò più parlare ed eccetto per Rirette, il cui fascino e la figura elegante sedussero l'assemblea, il sentimento che prevalse fu di delusione. Ci si aspettava di vedere dei mostri, erano invece degli uomini e anche molto giovani. Ci si sentì frustrati, non c'era nessuna possibilità di dialogo con quei ragazzi insolenti. Come? Tutto qui? Erano questi i mostri che avevano seminato il terrore? Eppure la paura c'era stata e andava vendicata, il che fu fatto con delicatezza e raffinatezza, perché la vendetta è un piatto che si gusta bene freddo. Né Raimon né gli altri furono per contro delusi dai loro giudici, si aspettavano di trovarsi di fronte volti come quelli e di sentire le parole che stavano sentendo, e disprezzavano troppo gli uni e le altre per abbassarsi fino a loro. La legge pretendeva di giudicarli, loro che la rifiutavano. Era una farsa sinistra. Insomma, si giocava sulla torre di Babele a porte chiuse. La rappresentazione solenne e ridicola durò 3 settimane. Sfilarono 304 testimoni, 150 dei quali a carico, 21 capi d'accusa. Il primo, associazione a delinquere, si fondava sull'ipotesi di una banda organizzata e teleguidata dalla coppia sanguinaria formata da Rirette e Kilbacicche. E dovette essere presto abbandonato, lo si volesse o meno. Comunque ne rimanevano 20. Erano state prese tutte le precauzioni necessarie. Il processo poteva andare avanti lo stesso. Nulla può servire a dare un'idea più precisa del modo con cui la borghesia giudicò che lasciar la parola al giornalista che seguì i dibattiti per l'Illustration, Alberic Crahuè. Ecco la sua prosa. Li si è agguantati e ora li si giudica. Sono là 20 accusati, i protagonisti, le comparse, le parti secondarie, i suggeritori e gli aiutanti, tutta la compagnia, tutta la banda, e non chiamiamoli assassini, anarchici, perché così c'è confusione e malinteso, perché quelli non sono dei fanatici colpevoli di delitti ideologici, di assassini politici. Niente affatto, hanno ucciso della povera gente, le loro vittime di cui hanno frugato le tasche o saccheggiato le casse sono umili impiegati a 150 franchi al mese, un esattore e giovani contabili di un ufficio di banca, fucilati senza difesa a bruciapelo. Sono dei vecchi infermi, è un autista che guida una vettura da consegnare, è un vigile urbano colpito a fuoco mentre richiede documenti d'identità. Si tratta di delitti comuni, i più abietti e i più infami, che in 10 assieme hanno preparato ed eseguito. È d'altronde quello che il presidente Quinault ha tenuto a dichiarare una volta per tutte, fin dalle sue prime parole. Oggi decisamente c'è qualcosa di cambiato in questa sala delle grandi prime criminali. Il pubblico chic non è stato invitato. Signore del bel mondo e quelle del demi-monde sono questa volta rimaste a casa e non vedremo in questo luogo, come in occasione dell'affare Steinel, lo scandalo delle loro toilettes d'anteprima. Non vedremo più frusci di seta, né risa isteriche sotto le velette, né gesti seducenti e profumati di belle braccia e mani fine che giocherellano con un occhialino o con un binocolo da teatro. L'ingresso, senza quei bagliori di vita, felice e quel brusio leggero, rimane quello che deve essere, quello che si è voluto che fosse, triste, austero, grigio, con le sue finestre troppo alte, attraverso le quali la luce indecisa e sempre smorta passa a fatica come la speranza. Ed è già molto se in questo giorno bigio che rende tutti volti scoloriti e spettrali si possono distinguere con una certa precisione i tratti impassibili del presidente e dei giudici d'assise. La sagoma coperta d'ermellino del vecchio procuratore generale che ha voluto in queste circostanze, forse pericolose, occupare lui stesso il seggio dell'accusa, e le oneste fisionomie dei giurati, un architetto, degli ingegneri, un medico, un impiegato e alcuni possidenti che dovranno rimanere là, immobili e attenti, faccia a faccia con la terribile banda per 20 giorni. Posti di fronte alle finestre, i 21 accusati, 18 uomini e 3 donne, sono in piena luce. non sembravano avere un bell'aspetto. Sono i banditi moderni, molto giovani per la maggior parte, crudeli, spietati, gaudenti, pretenziosi, fieri delle loro poche letture comprese, che hanno dato loro non opinioni ma odi e brame. Ci sono le tre o quattro pallide figure dallo sguardo bieco, imberbi, tra le quali il truce Efebo Kalemin, detto Raymond, la scienza, Sudì, l'uomo con la carabina, di Chantilly, e Belloni. C'è anche la prima della fila dalla parte dei giudici, una singolare fanciulla dal volto espressivo che ride continuamente e agita con civetteria i capelli corti e ricciuti, è la signora Maître Jeanne, direttrice o gerente della Casa dell'Anarchia. C'è, separato da lei, da una guardia, il suo amico Kilbacike, uno slavo sognatore, dagli occhi infossati in una faccia glabra, peraltro il solo teorico autentico della banda, il solo vero e sincero venditore di illusioni. Tutti gli altri, Dieudonné compreso, e compresi il robusto Caroui, il fantomatico Medj, il rosso Detweiler, e inoltre De Boe, Rodriguez, Monnier, detto Simmentoff, il sensale Crozat de Fleury, la signora Villemin e Barbe Leclèche, l'amante di Medj, sono tipi impersonali, insignificanti, anonimi, che avete incontrato 100 volte senza provare nessuna emozione o curiosità. Fate entrare i testimoni, ordina il presidente. Improvvisamente una folla fa ressa e invade la sala. Ci sono mescolati alla rinfusa i parenti e gli amici delle vittime e i parenti e gli amici degli assassini. Un uomo vicino a me impallidisce e bestemmia guardando su di. Gli chiedo, lo riconosce? Sì, lo riconosco. Mi ha sparato addosso a Chantilly. Un altro dichiara a mezza voce, mi hanno minacciato, ma io giro armato e porta la mano alla tasca rigonfia della sua giacca. L'appello è interminabile. Infine la fiumana defluisce a poco attraverso la porticina. Stanno per iniziare gli interrogatori. Signora Maître Jeanne, una donna giovanissima si alza. I suoi 24 anni sembrano 16 e nella sala si mormora da ogni parte. Ma è Claudine? La Claudine dei romanzi di Colette? Sì, sembra proprio Claudine, coi capelli corti, che una scriminatura divide in due pesanti bande brune. Allo stesso tempo fanciulla e ragazzo col colletto alla marinara, sul grembiule nero di scolaro. Claudine a scuola, vispa e vivace, che tiene in mano i propri appunti, il quaderno dei compiti e ha tra le dita una matita a cui fa la punta. Risponderebbe Claudine se dovesse difendersi in corte d'assise dalle accuse portate contro la signora Maître Jeanne, gerente di fatto del centro di ritrovo dell'anarchia, favoreggiatrice e affiliata, si dice, a un'associazione a delinquere? E Claudine risponde, con voce chiara, senza turbamento, senza goffaggine, soltanto un po' nervosa e stizzita talvolta contro il presidente, troppo insistente, ma non antipatica, e capace di lasciare nella sala un'impressione divertita, piuttosto favorevole. Il suo coaccusato, amico e associato Kilbacike, il giovane, slavo, pensoso, completa e precisa le spiegazioni richieste. La sua voce è dolce, il discorso scorrevole, elegante, preciso, si distingue per il linguaggio onesto degli anarchici terroristi. È di una scuola che ammette i sentimenti affettivi e la sensibilità, e che ha, a sua guida, la coscienza almeno quanto la ragione. Evoca la vita di lavoro e di povertà della coppia e la sua esistenza senza segreti, nella camera unica che era allo stesso tempo la sala di ritrovo dell'anarchia, dove si andava e veniva sempre a porte aperte. Il resto rivendica con insistenza su sé solo tutte le responsabilità che si vuole far pesare sulla compagna. Si risiede, è stato abile e si attende con tanta più curiosità l'interrogatorio delle vedette. È fatta, martedì, mercoledì e giovedì sono state interrogate le vedettes. Tutto qui? Sorpresa, delusione, stupore. Eccolo, quasi enfatico, intento a rinnegare le dottrine illegaliste e a considerare come imbecilli gli apologisti di Bonneau e di Garnier, a dichiarare perfino che Bonneau era un anormale, dalla mente alterata, ecco Dieudonné che il cassiere Caby ha riconosciuto come il suo assassino e che negherà tutto, persino l'evidenza, e d'altronde, stavolta senza uno slancio di sincerità, senza un grido vero che possa commuovere. Ecco Calemin, detto Raymond La Scienza, imberbe, piccolo, tarchiato, assai miope, molto giovane, molto infatuato, un ragazzaccio stizzoso che non ha neppure le parole del Gavroche dei Miserabili, al quale chiedo perdono per l'accostamento, e che avrà riportato sui suoi taccuini fin le più povere insolenze che riterrà abile mescolare alle sue deboli risposte e ai suoi più inverosimili rifiuti. Comunque si confonde presto, non trova risposta alle domande che non ha previsto e crolla infine vinto, disfatto e sconfitto coi suoi taccuini inutili. Ed è ora la volta dell'ambulante Monnier, detto Simentov, un meridionale tragico, chiacchierone e confuso, del garzone droghiere Soudy, che declama e si lamenta di non aver trovato una situazione adeguata alla sua intelligenza, di Caruy, l'espressione brutale, facilmente irritabile, che nega come tutti, ma con meno letteratura e più energia. Che dire degli altri accusati, quelli la cui testa non è in gioco? L'interesse decresce ancora se possibile. Ma ora alla sbarra si succedono i testimoni e provocano loro, sì, un po' di emozione. Alberic Cahuer era, come si vede, inserito ed in regola, nella regola della gente distinta, dei ben pensanti, delle persone oneste, dei suoi lettori. Tuttavia, questi accusati, inchiodati come allora si diceva sul banco d'infamia, non erano affatto così squallidi, ma il loro humor era troppo stridente per la sensibilità dell'epoca, più ricettiva allo stile liberty e a quello neocoloniale, a quello volgarmente sfarzoso o a quello insipido che non alle asprezze troppo moderniste e irritanti, provocatorie. Metteranno il pubblico a disagio. Queste le loro risposte. Il procuratore a Monnier. Insomma, voi frequentate pessime compagnie, Monnier. È vero, non tutti possono frequentare i giudici istruttori. Il presidente Raymond. Voi stesso vi siete accusato di un delitto a Bruxelles, Raymond. Io mi sono anche accusato di aver strangolato Luigi XIV. Il presidente Victor. Voi siete stato l'istigatore di questi delitti, Victor. Propagandista rivoluzionario sì, criminale no. Il procuratore a Dieudonné. Ma almeno avete rimorso dei vostri delitti? Dieudonné. Non ne ho commessi, ma quelli che sono morti forse l'hanno provato. Il momento più patetico della sfilata dei testimoni fu indubbiamente quello in cui Caby e Peymans, i fattorini della Rue Ordinaire, affermarono ancora una volta che Eugene era il loro assassino. Marie ebbe un bel protestare che Octave le aveva formalmente confessato la propria colpevolezza una sera a Nogent. Si intese solo ciò che si voleva intendere. Poi il procuratore generale Favre si lanciò nella sua requisitoria, che fu di inaudita violenza, un appello all'omicidio contro gli omicidi con premeditazione. Già altre volte, poco rassicurante, l'anarchia ci aveva lasciato inquietanti ricordi, gridò. Essa non comprendeva soltanto intellettuali, profeti, sapienti, fantasisti, affetti da snobismo, ma anche uomini d'azione. In effetti c'era di che inquietarsi. Ma questa anarchia che dava la morte e colpiva senza pietà, riprese lui, questi utopisti che credevano di trasformare l'ordine sociale lanciando bombe, non erano tuttavia della stessa famiglia di questi briganti, che non hanno avuto altri momenti che la cupidigia e altri strumenti che la pistola e il fucile. I loro antenati non saccheggiavano le banche, non assalivano per le strade i fattorini. La giustizia, 10 o 15 anni prima, aveva per sempre ghigliottinato Caserio, Maurice Henri, Vaillant, Liubeuf, vittime della stessa situazione dei banditi tragici, anch'essi perseguitati sin dall'infanzia per aver osato contestare l'ordine stabilito, anch'essi spinti dalla violenza ipocrita della società a praticare la violenza aperta. Il procuratore chiese 6 teste, Raymond, Dieudonné, Soudy, Monnier, Caruy e Metz, il cuciniere di Thiais. Lasciava i pesci piccoli al suo sostituto. Il 20 febbraio gli avvocati iniziarono le loro arringhe. Alcune furono molto brillanti. L'avvocato Rafael Haddad mise in evidenza il legame sentimentale che univa Rirette e Victor, la sua generosità, il suo amore materno. Le Breton lasciò da parte l'aspetto troppo rivoluzionario di Kilbacique per mettere in rilievo il nemico giurato dell'illeganismo alla Bonneau. Poi parlarono Zevaes per Karoui, Campinci per Detweiler e De Moro Giafferri soprattutto per Dieudonné, particolarmente commovente nei suoi atteggiamenti. Durante le frequenti interruzioni delle udienze, gli accusati erano divisi in due gruppi. In una stanza venivano rinchiusi Rirette, Raymond, Soudy, Metz, De Boe, Gauzy, Monnier, Kilbacique, Karoui, Dieudonné, mentre gli altri venivano ammucchiati nell'altra. Soudy, sempre platonicamente innamorato, ne approfittava per scrivere dei versi che trasmetteva a Rirette arrossendo. Raymond La Scienza ripeteva la storia. «Ah, se avessimo avuto una testa», diceva, «andavamo sempre alla cieca, partivamo per fare un colpo e poi ne facevamo un altro. Scientificamente questo non era valido». Talvolta diventava di nuovo sentimentale e lirico. «Acconsentirò a non essere più scientifico per una donna che ne valga la pena», diceva. Poi parlava di Louise. Non capiva, non voleva ammetterlo. Aveva fatto di lei una dea, dunque doveva essere al di sopra di ogni sospetto. Gauzy, commerciante di saldi di Vry, passava la giornata a piangere. In poche settimane i suoi capelli gli erano diventati completamente bianchi. Quanto a Medj, improvvisamente mistico, passava ore in ginocchio a pregare. Il 27 febbraio, infine, alle 2:30 del pomeriggio, la giuria si ritirò per deliberare. Doveva rispondere a 383 domande. Ne ebbe per 13 ore. Rirette Metrejean ha scritto il resoconto di questa giornata, la più lunga della sua vita. Il 27 eravamo entrati alle 11:15 nella sala d'udienza. Kilbacique era calmo e sorridente. Il giorno prima mi aveva scritto: «Amica mia, io ti chiedo di rassegnarci insieme alla peggior possibilità. Non dimenticare che non saprei essere forte senza che tu lo sia, con me e per me. In fondo, amica mia, che importa la sorte se noi sappiamo vincerla l'uno per l'altra e se sappiamo che qualunque cosa avvenga ci ritroveremo un giorno». Venne infine pronunciata l'ultima arringa. Il presidente ci interroga. Qualche ultima dichiarazione. Lettura delle domande. Sono tante. Quante formalità. Alla fine i giurati si ritirano. Dopo una mezz'ora d'attesa, nelle nostre camere di accusati, viene deciso di farci ricondurre nelle celle. Sono le 2:30. Alle 3 viene dato l'ordine di farci mangiare rapidamente. Visita dell'avvocato Haddad. Il verdetto verrà reso noto verso le 9 di sera, mi dice. Mangio un po' di minestra, bevo un po' di latte e comincio a girare nella mia cella come un animale in gabbia. Provo a leggere. Impossibile. Le righe mi ballano di fronte agli occhi. Vengono a trovarmi le suore. La superiora del carcere mi fa portare del tè molto caldo, mescolato con rum. Penso agli altri, a quelli che, come me, camminano su e giù nelle loro celle. Non posso far altro che pensare a tutti gli altri. Alle 8 mi viene comunicato che i giurati discutono la 150ª domanda. Ce ne sono quasi 400. Estremamente snervata, mi distendo completamente vestita sulla coccetta, ma riposare in queste condizioni è impossibile. Ricomincio la passeggiata lungo la gabbia. Alle 11 di sera. «Venite», dice un guardiano. Nuova perquisizione. Questa volta è proibito tutto per colpa di Raymond. Ha voluto fare lo spaccone ancora una volta. «Io morirò quando mi farà comodo», ha detto alle guardie. Risultato. Vengono ispezionate le più minuscole pieghe dei nostri vestiti. Il sottile orlo del mio camiciotto viene scucito. I capelli sono controllati con un pettine sottile. In alcuni del resto viene scoperta la droga liberatrice, una tavoletta di cioccolato, un minuscolo specchio, una piccola matita e un po' di carta bianca che mi era stata concessa di tenere. Mi vengono ora sequestrati. Si lascia soltanto il fazzoletto. Certamente prevedono che sto per piangere. Nei corridoi della grande prigione addormentata risuonano sonori i nostri passi. Durante questo tempo, nella sala delle assise, erano riusciti a penetrare sgualdrine e donne di mondo, gentiluomini e artisti. Il calore era spaventoso, le teste ciontolavano, ma nessuno pensava di andarsene. Come rischiare di perdere questo grande avvenimento? Verso mezzanotte ebbero fame e soprattutto sete. Si offrirono dei volontari che tornarono companieri di uova sode e casse di champagne, che passarono di mano in mano. La gente si interpellava da un banco all'altro, si scambiava battute e faceva scommesse. C'era una gran confusione. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.